Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Nel mondo oltre 1,5 milioni di persone ogni giorno si ammala per una malattia sessualmente trasmessa e riemergono patologie che sembravano scomparse, come la sifilide. A Obiettivo Salute il professor Antonio Cristaudo, direttore dell'unità operativa di dermatologia e di malattie sessualmente trasmesse dell'Istituto San Gallicano di Roma e presidente dell'Associazione Dermatologi Ospedalieri. La sifilide è una malattia sessualmente trasmessa, la cui incidenza a partire dal 2000 è progressivamente aumentata. Oggi la diagnosi si può fare attraverso una goccia di sangue capillare e nello stesso modo possono essere effettuate anche altri test, quale il test HIV o anche il test da clamidia. Attualmente l'infezione da clamidia rappresenta una delle malattie sessualmente trasmesse più frequenti. In particolare risultano colpite le giovani donne di un'età inferiore a 25 anni. L'infezione di sifilide, così come di altre malattie sessualmente trasmesse, aumenta il rischio di contrarre un'infezione da HIV di 7 volte. Quindi un soggetto che contrae la sifilide ha maggiore 7 volte un rischio maggiore di contrarre altre malattie quale l'HIV. È da dire subito che la diagnosi di queste malattie può essere effettuata facilmente, così come esiste tutta una terapia, la terapia per questo tipo di patologie. Ma l'aspetto più importante da sottolineare è che sono patologie che possono essere tranquillamente evitate attraverso l'uso di metodiche di protezione, quali per esempio il preservativo. Si chiama Diana Web, un progetto rivolto a tutte le persone che nel corso della loro vita hanno avuto diagnosi di tumore della mammella. Lo studio è coordinato dal Dipartimento di Medicina Predittiva e per la Prevenzione dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. La partecipazione al progetto è gratuita e il progetto si può seguire su web. A Obiettivo Salute la coordinatrice del progetto, dottoressa Anna Villarini. Sì, per partecipare a questo progetto non importa quanti anni avete, da quanti anni avete avuto diagnosi di tumore della mammella, non importa neanche se siete maschio o femmine, potete partecipare tutti andandovi a registrare attraverso il sito www.dianaweb.org. Noi riteniamo che l'alimentazione e dei corretti stili di vita possono essere molto utili in chi ha già avuto la diagnosi di tumore al seno, ma anche per contrastare la ripresa di malattia. Quindi vi aspettiamo nel sito. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta a Facebook, oggi ospite uno dei maggiori oncologi italiani, il professor Armando Santoro di Humanitas, con cui parleremo di prevenzione, di diagnosi precoce, ma anche di ricerca e di novità terapeutiche. Buona giornata da Nicoletta.